Il discepolo dell'occultismo viene avviato fin dall'inizio del suo cammino sulla via della venerazione e dello sviluppo della vita interiore. La scienza dello spirito fornisce anche norme pratiche con le quali si può seguire quella via e sviluppare la vita interiore. Queste regole pratiche non sono arbitrarie, ma provengono da esperienze remotissime e da un antichissimo sapere. Vengono date allo stesso modo, ovunque vengano indicate le vie alla conoscenza superiore. Tutti i veri maestri della vita spirituale sono d'accordo sul loro contenuto, anche se non le presentano sempre con le medesime parole. Tale differenza marginale, in realtà soltanto apparente, deriva da circostanze che qui non occorre considerare. Nessun maestro della vita spirituale vuole esercitare per mezzo di tali regole un ascendente su altri uomini. Non vuole ledere l'indipendenza di alcuno, perché nessuno apprezza e custodisce l'indipendenza umana meglio di un occultista. Nel precedente capitolo di questo libro è stato detto che la catena che unisce tutti gli iniziati è spirituale e che due leggi naturali formano le graffe che tengono uniti gli anelli di quella catena. Non appena però l'iniziato esce dal suo recinto spirituale e si presenta al mondo, deve tener conto di una terza legge che dice: sorveglia ogni tua azione, ogni tua parola, in modo che per opera tua non si tocchi la libera volontà di alcuno. Chi ha compreso che un vero maestro dell'occultismo è del tutto compenetrato da questo atteggiamento, sa anche di non rinunciare affatto alla propria indipendenza, seguendo le regole pratiche che gli vengono consigliate. Una delle prime regole può essere espressa all'incirca con le seguenti parole del nostro linguaggio: procurati momenti di calma interiore e in tali momenti impara a distinguere l'essenziale dal non essenziale. È stato detto qui che questa regola pratica suona così in parole del nostro linguaggio. In origine, tutte le regole e gli insegnamenti della scienza dello spirito venivano comunicati in un linguaggio di segni simbolici. Chi vuole imparare a conoscerne l'intera portata e tutto il significato deve prima acquistare la comprensione di quel linguaggio simbolico. La comprensione dipende dall'aver egli già iniziato i primi passi nella scienza dello spirito. Può però percorrerli seguendo con scrupolo le regole che qui vengono date. La via è aperta a chiunque abbia ferma volontà. Semplice è la regola suddetta, riguarda i momenti di calma interiore. Semplice è anche osservarla. Conduce però alla meta soltanto se intrapresa con serietà e severità, per quanto sia semplice. Verrà perciò detto, senza preamboli, il modo in cui questa regola debba essere eseguita. Nella sua vita quotidiana, il discepolo della scuola occulta deve isolarsi ogni giorno per breve tempo ed occuparsi di cose del tutto diverse da quelle che formano la sua quotidiana occupazione. Anche il modo in cui se ne occupa deve essere del tutto differente da quello che adopera nelle occupazioni che riempiono la sua giornata. Ciò non va inteso nel senso che quel che egli fa in quei momenti di isolamento sia avulso dal contenuto del suo lavoro quotidiano. Al contrario, chi cerca nel giusto modo tali momenti di calma osserva ben presto che da essi appunto riceve appieno la forza per il suo compito giornaliero. Né si deve credere che l'osservanza di questa regola possa davvero sottrarre ad alcuno il tempo per attendere ai propri doveri. Se una persona non disponesse realmente di altro tempo, 5 minuti al giorno sarebbero sufficienti. Tutto dipende da come quei 5 minuti vengono impiegati. Durante tale periodo ci si deve del tutto staccare dalla propria vita giornaliera. I pensieri e i sentimenti devono acquistare un colorito diverso dal consueto. Il discepolo deve passare con l'anima in rassegna le sue gioie, i suoi dolori, le sue pene, le sue esperienze, le sue azioni, Di fronte ad essi deve atteggiarsi in modo da considerare tutto ciò che di solito sperimenta da un punto di vista superiore. È sufficiente riflettere a come nella vita ordinaria si considerino le esperienze e le azioni degli altri in modo del tutto diverso da quello in cui si considerano le proprie. Né potrebbe essere altrimenti, perché in ciò che noi stessi sperimentiamo e operiamo ci troviamo intessuti, mentre l'esperienza e l'azione degli altri viene da noi soltanto considerata. Durante quei momenti di isolamento occorre perciò sforzarci di considerare e giudicare le proprie esperienze e azioni come se non fossero state da noi sperimentate o fatte, ma da altri. Immaginiamo per esempio che qualcuno sia stato colpito da grave sventura. Quanto diversamente si comporta di fronte a quella disgrazia rispetto a quanto non farebbe se essa avesse invece colpito un altro? Nessuno lo considera ingiustificato. È inerente alla natura umana. Come in questi casi straordinari, così è nelle vicende quotidiane della vita. Il discepolo della scienza occulta deve cercare la forza di porsi, in determinati momenti, di fronte a se stesso come ad un estraneo. Deve osservare se stesso con la calma interiore di un critico. Se vi riesce, le sue esperienze si palesano sotto una nuova luce. Fino a che vi si è intessuto, se ne fa parte. Ci si trova legato tanto al non essenziale quanto all'essenziale. Quando però si consegue la calma interiore propria di una visione generale, l'essenziale si scinde dal non essenziale. Dolore e gioia, ogni pensiero, ogni proposito, ci si palesano diversi quando ci si pone così di fronte a se stessi. È come se per una giornata intera si fosse rimasti fermi in una località e se ne fossero viste le parti più piccole altrettanto vicine come le più grandi. E poi la sera, saliti su una vicina altura, si desse uno sguardo d'assieme sull'intera località. Il rapporto fra le parti appare allora ben diverso da quando ci si era dentro. Con gli avvenimenti del nostro destino, attualmente vissuti, non si arriva a questa esperienza, né occorre arrivarvi, ma con quelle più lontane bisogna che il discepolo della vita spirituale si sforzi di riuscirvi. Il valore di tale tranquilla auto-osservazione interiore non dipende tanto da ciò che con essa si vede, quanto piuttosto dal trovare in sé la forza che sviluppi tale calma interiore. Al lato del suo uomo di tutti i giorni, volendolo denominare così, ognuno porta infatti nella sua interiorità anche un uomo superiore. Esso rimane nascosto finché non venga destato e ognuno non lo può risvegliare in sé che da se stesso. Finché però l'uomo superiore non è stato destato, rimangono nascoste anche le capacità superiori latenti in ognuno che conducono alle conoscenze superiori. Finché il discepolo non sente il frutto della calma interiore, deve continuare a seguire con serietà e severamente la regola prescritta. Per chi perseveri, arriverà il giorno in cui spiritualmente gli si farà luce attorno, in cui ad un occhio che egli finora non conosceva in sé si dischiuderà un mondo del tutto nuovo. Non occorre che vi siano cambiamenti nella vita corrente del discepolo perché comincia a seguire questa regola. Attende ai suoi doveri come per il passato, continua a sopportare i medesimi dolori e a sperimentare le medesime gioie. In nessun modo potrà venir così allontanato dalla vita. Potrà anzi dedicarvisi tanto più pienamente nel resto del giorno, perché nei suoi momenti di isolamento gode di una vita superiore. A poco essa esercita la sua influenza su quella ordinaria. La calma dei momenti di isolamento eserciterà la sua azione anche sulla vita quotidiana. Tutta la persona diventerà più calma. Acquisterà sicurezza in tutte le sue azioni, non si lascerà più turbare da ogni possibile contrattempo. Il discepolo dell'occultismo diventerà gradatamente sempre più capace di guidare se stesso e meno soggetto a lasciarsi guidare da circostanze e influenze esterne. Valuterà ben presto quale sorgente di forza siano per lui quei brevi periodi di isolamento. Comincerà a non irritarsi più per inezie che prima lo irritavano. Molte cose che prima paventava non susciteranno più in lui timore alcuno. Acquisirà una concezione del tutto nuova della vita. Prima si accingeva forse timidamente a questo o a quel lavoro e si diceva: mi manca la forza per compierlo nel modo che vorrei. Ora quest'idea non gli si presenta più. Gliene viene anzi una del tutto diversa. Egli si dice: raccoglierò tutta la mia forza per eseguire il lavoro quanto meglio mi sarà possibile. E soffoca il pensiero che potrebbe sgomentarlo, perché sa che il timore potrebbe nuocere e comunque non potrebbe contribuire a migliorarne la riuscita. Così, un pensiero dopo l'altro, si fa strada nella concezione che il discepolo ha della vita e tutti sono fecondi e proficui per la sua vita. Sostituiscono quelli che lo ostacolavano e lo indebolivano. Egli comincia a guidare la barca della sua vita tra i flutti della vita con un polso sicuro e fermo, mentre prima essa veniva sbattuta qua e là dalle onde. Tale calma e sicurezza reagiscono anche sull'intero essere umano, facendo crescere la sua interiorità e le facoltà interiori che conducono alle conoscenze superiori. Grazie al progresso conseguito in questa direzione, il discepolo arriva infatti gradatamente a determinare da sé come le impressioni del mondo debbano agire su di lui. Ode, per esempio, una parola detta con l'intenzione di offenderlo o di irritarlo. Prima del suo discepolato ne sarebbe rimasto offeso o irritato. Poiché ora persegue il sentiero del discepolato occulto, sa togliere da quella parola il pungiglione offensivo ed irritante prima che penetri nella sua interiorità. Oppure un altro esempio: l'attesa rende facilmente impazienti. Chi segue il sentiero dell'occultismo durante i suoi momenti di calma sarà tanto compenetrato dal senso dell'inutilità dell'impazienza da esserne pervaso ogni volta che sperimenterà impazienza. Svanisce l'impazienza che voleva manifestarsi e il tempo che altrimenti sarebbe andato perduto per le fisime dell'impazienza durante l'attesa verrà forse impiegato per qualche osservazione utile. Occorre ora rendersi conto della portata di tutto ciò e riflettere che l'uomo superiore in noi è in continua evoluzione e che la possibilità di un'evoluzione regolare gli viene fornita soltanto dalla sopra descritta calma e sicurezza. Le onde della vita premono sull'uomo interiore da tutte le parti, se invece di dominare la vita, egli se ne lascia dominare. Un uomo siffatto può essere paragonato ad una pianta costretta a svilupparsi nella fessura di una roccia. Essa languisce finché non le si procuri spazio. All'uomo interiore nessuna forza esterna può procurare spazio. Glielo può dare soltanto la calma interiore che egli procura alla propria anima. Le condizioni esteriori possono modificare soltanto la situazione esteriore della sua vita, ma non potranno mai destare l'uomo spirituale in lui. Il discepolo dell'occultismo deve generare in se stesso un uomo nuovo, superiore. L'uomo superiore diventa allora il sovrano interiore, che guida con mano sicura le condizioni dell'uomo esteriore. Finché l'uomo esteriore conserva il predominio e la direzione, quello interiore è suo schiavo e non può perciò sviluppare le proprie forze. Se il destarsi della mia collera dipende da altri che da me, io non sono padrone di me stesso. Oppure, per dir meglio, non ho ancora trovato il sovrano in me. Devo sviluppare in me la capacità di permettere alle impressioni del mondo esteriore di avvicinarmisi solo nel modo che io stesso ho determinato. Il discepolo potrà giungere alla meta solo nella misura in cui cercherà seriamente quella forza. Poco importa quanto progresso farà in un determinato tempo, importa soltanto che cerchi seriamente. Molte persone da anni seguono con Lena quella via, senza osservare in sé alcun notevole progresso. Molti però che non hanno disperato ma sono rimasti costanti, hanno poi conseguito d'un tratto la vittoria interiore. Certo, in molte situazioni della vita occorre una gran forza per procurarsi momenti di calma interiore. Quanto maggiore è però la forza necessaria, tanto più è importante ciò che si consegue. Nel sentiero dell'occultismo tutto dipende dall'energia, dalla verità interiore e dalla completa sincerità con le quali il discepolo è capace di osservare se stesso e tutte le proprie azioni, come se fosse di fronte a qualcuno del tutto estraneo. Con la nascita del proprio uomo superiore si è però caratterizzata soltanto una parte dell'attività interiore del discepolo dell'occultismo. Occorre aggiungervi dell'altro. Quando ci poniamo di fronte a noi stessi come ad estranei, osserviamo tuttavia soltanto noi stessi. Vediamo le esperienze e le azioni con cui siamo stati connessi per via delle condizioni particolari della nostra vita. Occorre superarle. Ci dobbiamo elevare ad una prospettiva puramente umana che nulla abbia più a che fare con la nostra situazione particolare. Dobbiamo considerare le cose che ci concernano in generale quali esseri umani, anche se vivessimo in condizioni del tutto diverse, in tutt'altra situazione. Così viene suscitato in noi qualcosa che trascende l'elemento personale. Dirigiamo così lo sguardo verso mondi superiori, a quelli coi quali veniamo in contatto nella vita quotidiana. Cominciamo allora a sentire, a sperimentare di appartenere a mondi superiori. Sono mondi dei quali i nostri sensi umani, le nostre occupazioni quotidiane, nulla ci possono dire. Così soltanto trasferiamo il centro del nostro essere nell'interiorità. Ascoltiamo le voci interiori che ci parlano nei momenti della calma. Coltiviamo nella nostra interiorità una relazione con il mondo spirituale. Siamo sottratti alla vita quotidiana. Il rumore relativo è per noi attutito. Attorno a noi vi è silenzio. Respingiamo tutto ciò che ci circonda e le impressioni esterne. L'anima si riempie tutta di quieta contemplazione interiore, di dialogo con il puro mondo spirituale. Tale serena contemplazione deve diventare per il discepolo dell'occultismo una necessità naturale della via. All'inizio è del tutto immerso in un mondo di pensieri. Deve sviluppare un sentimento vivo per una serena attività del pensiero. Deve imparare ad amare ciò che gli fluisce dallo spirito. Ben presto, egli smette di sentire il mondo dei pensieri come meno reale delle cose giornaliere che lo circondano. Comincia a trattare i suoi pensieri come le cose nello spazio. Si avvicina allora per lui anche il momento in cui comincia a sentire come ciò che gli si rivela nella calma dell'intimo lavoro del pensiero sia più elevato, più reale, più vero delle cose che esistono nello spazio. Egli sperimenta che nel mondo dei pensieri si esprime la vita. Si rende conto che nei pensieri non vivono semplici ombre, ma che attraverso i pensieri gli parlano entità nascoste. Voci cominciano a parlargli dal silenzio. Prima i suoni gli pervenivano soltanto a mezzo dell'orecchio, ora gli risuonano attraverso l'anima. Gli si rivela un linguaggio interiore, una parola interiore. La prima volta che il discepolo sperimenta questo momento si sente invaso da beatitudine infinita. Una luce interiore si riversa su tutto il suo mondo esteriore e comincia per lui una seconda vita. Si riversa attraverso di lui la corrente di un mondo divino, apportatore di divina beatitudine. Questa vita dell'anima in pensieri, che sempre più si allarga fino a diventare vita che si svolge in essenza spirituale, dalla gnosi e dalla scienza dello spirito, è chiamata meditazione o riflessione contemplativa. La meditazione è il mezzo per arrivare alla conoscenza soprasensibile. In tali momenti, però, il discepolo non deve abbandonarsi ai sentimenti, non deve avere nell'anima sentimenti indefiniti, non potrebbero che impedirgli di arrivare alla vera conoscenza spirituale. I suoi pensieri devono formarsi con chiarezza e precisione. A tal fine gli sarà di aiuto il non abbandonarsi ciecamente ai pensieri che sorgono in lui. Deve piuttosto compenetrarsi dei pensieri elevati che gli uomini progrediti, già penetrati nello spirito, avevano pensato in simili momenti. Come punto di partenza, deve prendere gli stessi scritti che sono derivati dalle rivelazioni provenienti dalla meditazione. Il discepolo dell'occultismo troverà oggi tali scritti nella letteratura mistica, gnostica e in quella scientifico-spirituale. Da essi potrà attingere la sostanza per la sua meditazione. I cultori dello spirito riposero in quegli scritti i pensieri della scienza divina. Lo spirito li fece rivelare al mondo per mezzo dei suoi messi. Con la meditazione si ha nel discepolo una completa trasformazione. Egli comincia a formarsi rappresentazioni del tutto nuove sulla realtà. Tutte le cose acquistano per lui un valore diverso. Conviene sempre ripetere che tale trasformazione non lo rende estraneo al mondo. Non viene affatto allontanato dalla cerchia giornaliera dei suoi doveri, perché impara a riconoscere che la più piccola azione da lui compiuta, la più piccola esperienza che gli si presenta, è connessa con le grandi entità e con i grandi eventi cosmici. Se mediante i suoi momenti di contemplazione questo nesso diventa per lui evidente, si dedicherà con nuova e maggior forza alla cerchia giornaliera della sua attività. Ora sa, infatti, che ciò che egli opera e soffre viene da lui operato e sofferto per amore di un grande nesso spirituale cosmico. Dalla meditazione non scaturisce indolenza, ma forza per la vita. Il discepolo dell'occultismo attraversa la via con passo sicuro. Qualsiasi prova essa gli apporti, egli procede eretto. Prima non sapeva perché lavorava, perché soffriva. Ora lo sa. È evidente che l'attività meditativa conduce meglio allo scopo, se esercitata sotto la direzione di persone sperimentate che sappiano per scienza propria come sia meglio procedere. Si ascolti dunque il loro consiglio e la loro direzione. Non per questo si perde la propria libertà, mentre altrimenti si procederebbe incerti e a tastoni. Con tale aiuto il nostro lavoro procede sicuro alla meta. Chi cerca persone dotate di conoscenza ed esperienza in tale direzione non busserà mai invano. Sia conscio soltanto che cerca il consiglio di un amico e non la prevalenza di un dominatore. Si troverà sempre che le persone che veramente sanno sono fra le più modeste e sono ben lungi dal desiderare quello che gli uomini chiamano potere. Chi si eleva con la meditazione a ciò che lo congiunge allo spirito, comincia a dar vita in sé all'elemento eterno che non è limitato da nascita e morte. Può dubitare dell'elemento eterno soltanto chi non lo ha sperimentato. La meditazione è così la via che conduce anche alla conoscenza, alla visione del nocciolo eterno indistruttibile del proprio essere. Soltanto per mezzo di essa si può arrivare a tale visione. La gnosi, la scienza dello spirito, parlano dell'eternità del nocciolo dell'essere, della sua reincarnazione. Spesso si chiede perché nulla si sa delle esperienze che sono al di là di nascita e morte. La domanda non va posta in quel modo, ma piuttosto, come si consegue tale conoscenza? La giusta meditazione ne apre la via. Per suo mezzo torna a vivere il ricordo di esperienze che sono al di là di nascita e morte. Ognuno può acquisire quel sapere, ognuno ha la capacità di conoscere e di vedere da sé ciò che gli viene insegnato dalla vera mistica, dalla scienza dello spirito, dall'antroposofia e dalla gnosi. Deve soltanto scegliere i mezzi giusti. Solo chi ha orecchi e occhi può percepire suoni e colori, ed anche l'occhio nulla può percepire se manca la luce che rende le cose visibili. La scienza occulta dà i mezzi per sviluppare gli orecchi e gli occhi spirituali e per accendere la luce spirituale. L'insegnamento della disciplina spirituale può dirsi costituito da 3 gradini. La preparazione, che sviluppa i sensi spirituali, l'illuminazione, che accende la luce spirituale, l'iniziazione, che mette in relazione con le entità superiori dello spirito.